si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Sono le 8:30, una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Si può fare da Laura Bettini e una buona giornata anche a te Carlo, come va? Benissimo, buona giornata a te Laura, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. Carlo Gabardini ovviamente sempre a casa sua perché siamo sempre distanziati, ma fisicamente, non socialmente, no? È vero, purtroppo sì, non vediamo l'ora di rincontrarci, ma siamo ancora distanziati nella stessa città. C'è anche una sua bellezza, devo dire, questo anche fare la radio da casa. Credo che ognuno abbia scoperto con i propri smart working la differenza di lavorare da casa, a volte anche magari di risolvere un certo tipo di problema che è sempre stato solo lavorativo, invece tra le proprie mura. Devo dire che in questa fase che non sappiamo ancora bene come chiamare, non so, come la vogliamo definire Laura? La fase 1 della fase 3? La parte A della terza fase? Non lo so esattamente. La fase però attuale. Esatto, ah vedi, tu sei molto più brava, giustamente trovi una parola che in un modo o nell'altro andrà bene e non bisognerà correggerla, e che in un modo o nell'altro andrà bene mi sembra un bel hashtag. Sì, però tu dicevi, insomma, tutto sommato non ti dispiace. Invece a me, devo dire, non è che tutto sto smart working piaccia tantissimo. Mi mette, sarà che no, se sono a casa mia mi viene in mente che avrei dovuto fare la lavatrice, per esempio. E il fatto di essere così in prossimità della lavatrice stessa mi disturba, no? Perché se sono in ufficio dico sono in ufficio, la lavatrice aspetta. E se invece sono lì dico beh, poi magari invece di fare la pausa caffè attacco la lavatrice. Beh, non lo so, sono cose, sono piccolezze, però ecco, non mi entusiasma. No. Non è una piccolezza per niente, perché ci sono anche diversi studi che stanno sottolineando che si lavora molto di più, non solo si lavora di più, diciamo, riguardo il proprio lavoro, ma anche perché uno mentre lavora effettivamente, soprattutto le donne, continuano a fare ciò che di solito facevano almeno fuori dall'orario di lavoro. Invece adesso è una specie di continuum di 24 ore in cui si continua a essere attivi e bisogna resistere, non si può tirare avanti, diciamo, ancora a lungo. No, oppure bisogna darsi delle nuove regole. Questo poi dopo, se la fase attuale Bravissima. Diventerà una fase continuativa, insomma, dovremo sicuramente darci delle regole diverse anche noi, proprio di educazione al lavoro da casa, con appunto mi chiudo la porta e lasciatemi stare, o comunque mi convinco che penso solo a questo, anche perché sennò alla fine si lavora male, nel senso si lavora divisi, no? Il cervello lavora su due fronte e il risultato è che non si fa bene da una parte e non si fa bene neanche dall'altra, e magari si ha anche qualche stressio, no? Perché insomma, se sei lì, perché non ti posso chiedere una certa cosa? Perché non puoi rispondere a una certa domanda che non ti verrebbe fatta se tu fossi al lavoro in ufficio? Quindi si creano molto, anche molto delle vero. Tensioni. Infatti, giusto, come dici tu, nel momento che questa fase attuale diventerà continuativa, non per niente gli stessi sindacati dicono bisognerà capirlo, nel senso che è una forma di contratto lo smart working, non è semplicemente stai a casa, paghi tu tutti i mezzi di produzione, paghi tu l'elettricità e poi in qualche modo ci mettiamo d'accordo. No, è un nuovo contratto che giustamente, usciti dall'emergenza, si penserà di stabilizzare. Tra l'altro noi ne parleremo domani con Tito Boeri, che esatto. Lungamente studiato questa questione, ultimamente l'ex presidente dell'INPS, e adesso ha appunto dei risultati, dei dati di cui discuteremo domani. Invece oggi parleremo di cinema, tra non molto, e magari invitiamo anche gli ascoltatori a dire la loro, ci andranno o non ci andranno, ma parliamo, visto che anche il weekend e per ora il tempo regge, anche se sappiamo che nelle prossime ore va a peggiorare almeno sul nord Italia, magari parliamo anche di qualche gita fuori porta che avete già fatto, che avete intenzione di fare. Se userete la bici, andrete a piedi oppure prendete la macchina perché non volete assolutamente avere contatto con nessuno, ma avete voglia di uscire dalla vostra città. Tu, Carlo, hai già fatto qualche gita o hai intenzione di farne? Ho fatto in realtà non molto, sono stato mezza giornata al lago, però accolgo la tua richiesta per i nostri ascoltatori, nel senso che mi sembra, io sento tutti i miei fratelli, le mie sorelle, siamo tutti in cerca di un posto che sia non troppo lontano, ma non esattamente a casa, non affollato, quindi anche semplicemente delle indicazioni di quella panchina lì all'ombra è un bel posto perché non c'è troppa gente, piuttosto che quella collina, andate a visitare quel borgo, secondo me sono consigli che possiamo chiedere ai nostri ascoltatori ben volentieri, perché la città è prodiga di consigli. Io cammino anche semplicemente per andare al parco e c'è qualcuno che ti dice: no, guarda, se fai ancora un po' un pezzo più avanti c'è una bellissima aiuola dove ti puoi mettere, lì non c'è nessuno. Bene, allora io, come dire, non ho ancora suggerimenti. Tu hai fatto gite, Laura? No, infatti, io non ho fatto delle vere e proprie gite, ho fatto delle passeggiate nel parco, se io abito a Pavia, quindi abbiamo lì accanto il Ticino, e quello è il nostro riferimento primario, no? per le prime, certo, attività fuori casa. In realtà lo è sempre un po' stato, perché sì, se uno ce l'aveva a 200 metri da casa ci poteva andare comunque, perché lì non è ovviamente un'area giochi, è un parco che attraversa la città e ha diversi spazi verdi, tutti belli lontani, si poteva comunque raggiungerli, certo chi aveva la fortuna di starci vicino. Poi comunque abbiamo ripreso tutti quanti ad andarci, ci sono un po' di segnalazioni, come è noto, no? Di piccoli screzzi con runner, rider, gente in bici, gente a piedi, e vabbè, insomma dobbiamo anche lì trovare la novità, cioè trovare le distanze l'uno con l'altro, no? Però insomma alla fine tutto si aggiusta, certo. Vorrei andare un pochino sul lago di Como se possibile, ci stiamo ragionando, o nell'Oltrepò Pavese. Io ho in mente, quando feci molti anni fa un pezzo della Via del Sale, ecco, mi piacerebbe rifarlo se le mie figlie mi consentono, perché è un po' impervia, non so se hanno tanta voglia di arrampicarsi come caprette su per le montagne, però ci proviamo. Senti Carlo, e per il resto ascoltiamo ben volentieri all'800 24 00 24 consigli dei nostri ascoltatori su posti belli e nascosti per fare gite fuori porta senza assembramenti o per fare nuove scoperte. E poi oggi è anche la giornata del quiz. E poi la giornata, infatti stavo proprio per aggiungerlo, perché è lo stesso numero 800 24 00 24 che bisogna digitare, comporre per partecipare al nostro quiz, no? Una domanda, tre possibili risposte, e scegliete quella che vi sembra quella più corretta, coerente, magari la sapete, magari la dovete tirare a indovinare, ma insomma quello è. E noi vi regaliamo un libro, abbiamo provato a chiedere, ma per ora sul Moodle che non abbiamo ancora, Carlo, possibilità di darvi biglietti, vabbè, insomma. Libro, giusto, si legge. Prepara. Si va al parco, esatto, e si legge. Ci si prepara a casa e poi dopo si uscirà e si andrà nei musei. Qualche buona notizia della settimana che ci vuoi segnalare? Guarda, ti confesso che la buona notizia della settimana l'ho letta ieri sera, all'ultimo, proprio in extremis, e sono addirittura parole di Donald Trump, che dice: la pari giustizia ai sensi della legge deve significare che ogni americano riceve pari trattamento in ogni incontro con le forze dell'ordine, indipendentemente da razza, colore, genere o credo. Devono ricevere un trattamento equo dalle forze dell'ordine. So bene che non sembrano parole di Trump, e già questo è terribile, devo dire, ed è anche molto indicativo. So bene anche che gliele avranno consigliate, gliele avranno scritte, gliele avranno, non so, tatuate sulla lingua contro la sua volontà. Però io credo che sia un bene che si cerchi in tutti i modi di mantenere e stimolare una certa lucidità, e soprattutto di dimostrare la superiorità delle istituzioni quando si riappropriano del linguaggio della loro funzione. Cioè, queste parole di Trump, mi spiego meglio, il presidente degli Stati Uniti che dice tutti gli americani siano trattati allo stesso modo dalla polizia, è chiaro, è ovvio a tutti noi che sia la cosa giusta, la cosa che deve dire e che tutti noi vogliamo che dica perché crediamo nella giustizia. Al contrario, additare i manifestanti come terroristi da abbattere, intimare i governatori a usare la Guardia Nazionale per disperdere la folla, parlare con la Bibbia in mano come se tu fossi il buono e gli altri il demonio, baciare rosari durante i comizi, parlare in piazza col microfono per dire che il virus non esiste e che è colpa del 5G, di Bill Gates e della Merkel, dire ai parenti delle vittime del Covid mi spiace ma comunque dovremo morire tutti, è chiaro, è ovvio a ognuno di noi che ciò sia cialtronaggine, che ciò sia bassissimo populismo, che questo è rischiare il fondo del barile, è raschiare ovviamente il fondo del barile, è voler cercare lo scontro approfittando delle difficoltà. Insomma, tutto questo che abbiamo visto accadere anche in questa settimana, sappiamo che è parte del problema e mai una soluzione. Ecco, ristabilire ogni tanto che non è tutto uguale, che ognuno di noi conosce bene le differenze e che questo tipo di politica cinica e furbastra non porta nulla di buono o interessante, beh, mi pare un buon punto di ripartenza. E di ripartenza si parla tantissimo in questi giorni. Tra l'altro, a proposito di ripartenze dei nostri ascoltatori fuori porta, sono già arrivate alcune segnalazioni. C'è qualcuno che va molto bene in treno da Milano a Piacenza, poi usa il monopattino elettrico per questa sua prima gita fuori dalle mura, dalla cerchia dei bastioni. C'è chi ci invita ad andare al Museo del Peperoncino in Calabria, vedi che e c'è chi invece, convinto, vado in auto fuori porta con quello che me la fanno pagare, andateci voi in bicicletta, hai capito? Certo. In macchina, ci vai in macchina, basta, fine, non vogliamo più. E poi qualcuno commenta invece il lavoro da casa, che è uno squallore infinito, e insomma non condivide la tua posizione, questa ascoltatore, ascoltatrice, non so, comunque. Ce n'è. Cos'è che non condivide? Non il lavoro sentito. Da casa, non gli piace lavorare da casa. Vabbè, ma ci sta. Ci sta, infatti anche a me piace poco, io lo dico, l'ho sempre detto, non è la mia passione. Poi sarà anche che per un giornalista lavorare a casa è un po' tristo, devo dire. È meglio vederle le cose che... sono lavori e lavori, ecco. Ci abbiamo anche un ascoltatore che chiama da Milano, che si chiama Paolo. Buongiorno Paolo, ci sente? Sì, ciao, sono accostato proprio in autostrada, in tangenziale zona Milano, e buongiorno a tutti. Tra l'altro hai letto uno dei miei messaggi, perché buongiorno, mi sto recando proprio in stazione, sono il ragazzo quello che andrà a Piacenza, è bellissimo. Ma più che altro no, volevo raccontare l'esperienza del fatto che ho comprato questo monopattino elettrico da 3 settimane, insomma, dopo che avevano annunciato il bonus elettrico. Tra l'altro sarà un... dicono ci sarà questo click day, quindi sarà un assalto per avere il bonus. Ma sì, l'ho mobilità. Letto stamattina appunto nel Sole 24 Ore, che se lei è un ascoltatore magari mi ha sentito, insomma sarà sì. Sto click day, io non lo vedo malissimo. Ancora quando, no. Però insomma. Comunque volevo raccontare l'esperienza settimana scorsa, è molto bello perché ho preso il treno, per chi conosce Milano, fino a Cassano d'Adda, salendo col mio monopattino, e poi da lì tutto il naviglio della Martesana, la zona Faragera d'Adda, il fiume Adda, insomma è molto bello, secondo me è un modo proprio di scoprire, stavo più per l'incentivo anche per poi andare al lavoro, però effettivamente lo sto scoprendo per poter spostarmi e fare anche delle belle gite, secondo me è molto rilassante e ti dà un po' quel minimo di senso di libertà, per carità è una cosa minima, però consiglio veramente, oggi come hai letto nel messaggio scenderò alla stazione di Piacenza e da lì girerò tutta la città, diciamo, possibile anche legarlo, lasciarlo da qualche parte. Ma invece mi sembra assolutamente un si può fare, non mi sembra una cosa minima, nel senso che non siamo molto abituati a spostarci sui mezzi di trasporto pubblici portandoci dietro un altro mezzo nostro privato, ovvero quello che si fa in molti paesi, per esempio mettendo la bicicletta sul treno, da noi si fa con più difficoltà, e quindi con il monopattino mi sembra molto bello che uno prende il treno da casa e arriva in una città, si gira tutta la città col monopattino e poi torna in treno, quindi mi sembra bello, un ottimo consiglio. Esatto, ricordiamo ovviamente che ci sono dei limiti, i monopattini elettrici equiparati alle biciclette da gennaio, con, giusto per i tecnici, massimo motore potenza 500 watt e il limite 25 km orari. Lo dico Paolo perché è uno preciso, si può, ingegnere. Si può essere, mi sono esatto, informatissimo, però è sì. Bellissimo, diciamo che dà la possibilità di fare un'autonomia di, ho provato tutta una carica totale di 55 km, e questo permette veramente di poter programmare dei percorsi molto molto belli in mezzo alla natura, ecco. Quindi per chi ci ascolta, il Naviglio della Martesana è molto molto consigliato, insomma, però anche altre gite sicuramente. Dai, va bene, grazie, grazie molte mille. Paolo, buona giornata allora. Grazie, buon divertimento. Grazie a voi, ciao ciao. E ha chiamato anche Giuseppe da Ragusa invece per partecipare al quiz. Oggi grande attività sulle nostre linee telefoniche. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Voi a Ragusa gite ne avete di bellissime a portata di mano, a portata di piede sicuramente, ma adesso noi facciamo la nostra domandona e tre possibili finali. Adesso io inizio. Ok. Silver 2 è una macchina avveniristica sviluppata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con la stazione Anton Dorn di Napoli. Che cosa è esattamente questo Silver 2? Risposta numero 1: è un robot umorista capace di inventare barzellette divertentissime in 15 lingue diverse. È il primo robot in cura da uno psicanalista a un'intelligenza artificiale così avanzata da soffrire di depressione. Risposta numero 3: è un robot granchio capace di ripulire il mare dalla plastica senza rovinare i fondali. Penzola 3. E bravo Giuseppe, è proprio così. Il nostro notaio è stato solerte, è proprio così. Non è un robot umorista, non è uno psicanalista, ma è il robot granchio che pulisce dalla plastica il mare. E con questo lei si porta a casa un libro, verrà ricontattato dalla nostra segreteria, dal nostro centralino lunedì. Grazie Giuseppe, buona giornata. Poi, buon lavoro. E noi abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Punto davvero parliamo di cinema, parliamo di cinema perché il 15 riaprono finalmente le sale per poter vedere i film, ma poi si deve ripensare tutto in questo settore, tutto andrà cambiato, tutto dovrà essere nuovo. Pensiamo anche solo, no Carlo, a chi deve produrre, stava producendo magari un film o aveva intenzione di, beh, le regole saranno completamente diverse, tutto sarà diverso. Di questo noi vogliamo parlare con Francesco Rutelli, che è il presidente di ANICA, cioè l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ci siamo veramente. Buongiorno. Riaprono i cinema, però insomma è tutto un settore che ha subito tantissimo e che non finirà domani di subire, purtroppo. Beh, diciamo che siamo molto sintonizzati con il titolo e il messaggio della vostra trasmissione, nel senso che dall'inizio condizioni veramente difficili, questa filiera, che è una filiera complessa perché rappresenta chi produce, chi distribuisce, chi ha i cinema, gli esercizi, chi lavora per le piattaforme o le televisioni, gli autori, gli attori, un'enorme realtà di lavoro, di professionalità preziose, che sono state anche di recente documentate come uno dei comparti più innovativi che danno più lavoro ai giovani e alle donne relativamente agli altri comparti produttivi in Italia. E tutto questo da un inizio del 2000 che era magnifico, perché considerate che lo scorso anno ha visto l'Italia crescere nelle sale come incassi più di tutti gli altri paesi europei. L'inizio del 20 era stato ottimo, anche come qualità, i premi a Berlino i nostri autori, quindi una situazione decisamente positiva. È arrivato questo spaventoso lockdown davvero di sistema, e quindi quindi il cambiamento, come tu giustamente voi dite, non potrà che essere di sistema. Intanto però tutti i segnali positivi, questo è il collegamento con il si può fare, tutti i segnali positivi possibili, devo dire, una filiera molto complicata ha cercato di darli, sta dandoli, appunto il 15 si riapriranno gradualmente le sale, durante l'estate ci saranno almeno 200 arene all'aperto in ogni parte d'Italia, grazie agli esercenti. Voglio qui ringraziare l'ANEC di Mario Rodini, i nostri alleati che gestiscono con enorme difficoltà le sale cinematografiche in tutta Italia. Quindi ci sono tanti segnali, la filiera ha anche stabilito un accordo di tutti, e qui l'ANEC ha fatto un grande lavoro, la Presidente dei nostri produttori. Vi dico dei nomi che magari non tutti conoscono. Se no io le dico una cosa, però resti un attimo in attesa, che il collegamento è un po'... ma semplicemente perché la sentiamo male. Non voglio aggiungere nessuna domanda, ma vogliamo provare a ricontattarla, perché altrimenti come dire, ci perdiamo, no? Carlo, io non so... Se concordavi con me su questo punto, ma io sentivo veramente un po' troppo a strappi per proseguire. Concordo assolutamente. Io conosco almeno una persona. Sono anche molto curioso. Ecco, adesso ce l'abbiamo di nuovo sono in collegamento. Sono molto curioso delle risposte. No, ma adesso la risentiamo. Proviamo, dai. Tutto quello che ho detto lo buttiamo. No, assolutamente. No, però adesso lo sentiamo meglio. No, stavo citando la presidente produttori Francesca Scima, sono nomi che magari al grande pubblico non dicono tanto, però è la produttrice della grande bellezza, si è messa al tavolo di tutti, con tutti, con una pazienza, con uno spirito unitario, per fino all'ultimo dei lavoratori, fino all'ultimo dei produttori, dei distributori, perché questa industria è un'anima fondamentale del paese, dovesse potesse. Ecco, adesso proprio invece non ce l'abbiamo fatta. Non mi sentire. No, vabbè. Senta, lei c'è infatti. Senta, ma come riapriranno le sale cinematografiche? Gradualmente. Ovvero sia, ma come nel senso che si potrà entrare la metà degli spettatori, se avete previsto un aiuto per gli esercenti, per cui ogni volta che staccano un biglietto, siccome possono riempire solo la sala a metà, hanno degli incentivi, come funziona? Le norme sono complicate come per tutti i luoghi di incontro pubblico, sapete che c'è una limitazione, che speriamo a 200 persone massimo alternate. Speriamo con un allentamento delle misure come nelle altre situazioni pubbliche, pensate ai teatri, no? Chi può aprire un teatro di 300 posti con luoghi alternati, con persone che non possono recitare sul palco. È chiaro che il cinema è meno complicato perché è un prodotto da vedere sullo schermo, non ha live le persone sul palco, però è anche vero che il prodotto si deve essere. Le produzioni sono state interrotte, molti dei grandi gruppi pure internazionali stanno frenando perché in tutto il mondo la situazione è identica, e quindi ci sarà una gradualità, però c'è questa, ripeto, questa volontà. Intanto il 15 diverse sale riapriranno con i prodotti possibili, e nelle arene ci saranno sia i film più recenti sia delle rassegne, e ci sarà gradualmente la ripresa dei set, ovvero delle produzioni, perché scherzando, qualcuno ha fatto il paragone con le messe, no, se aprono le chiese non si riaprono le cinema. Diciamo, la messa grosso modo sono 1700 anni che ha lo stesso svolgimento. Il cinema cambia ogni giorno, naturalmente il prodotto deve cambiare, e se non c'è il prodotto è difficile che si apra una sala. Ma nonostante queste difficoltà ovvie, che riguardano a maggior ragione lo spettacolo dal vivo, tutta la filiera cinema e audiovisivo è unita perché c'è grande domanda di prodotto, e in questi mesi di lockdown tanti hanno riscoperto il cinema, hanno riscoperto le serie televisive, i contenuti brevi, i documentari e soprattutto le capacità italiane di fare questi prodotti. Quindi c'è una domanda, molto vero, molto vero. C'è una necessità, lo dicevo anche settimana scorsa. Dicevo anche settimana scorsa che siamo riusciti a vedere Favolacce, che è il film che a Berlino ha vinto un premio come miglior sceneggiatura, che l'abbiamo potuto vedere comodamente da casa. Sono anche molto curioso di come riapriranno i set. Mi perdoni se la domanda è anche vagamente interessata, perché dovevo girare un film come attore a giugno che al momento è stato rimandato a settembre, quindi sono molto contento se riaprono i set, e volevo sapere come riaprono i set e com'è questa questione, se ho capito bene, che lei chiede che lo Stato in qualche modo si faccia garante dal punto di vista assicurativo nel caso che sul set dovessero esserci problemi per il virus. Sì, ma lei nel suo ruolo in questo film doveva avere rapporti sessuali con un'altra interprete o avere era una scazzottata, guardi, era esattamente una scazzottata. Allora, quella bisogna farla in digitale, in post-produzione. Anche i rapporti affettivi troppo ravvicinati. No, diciamo, noi abbiamo fatto anche degli accordi per garantire che tutte le produzioni e tutte le persone che lavorano sul set siano monitorate costantemente con tamponi, serologico, una sorveglianza. È chiaro che il governo deve aiutare questi procedimenti, come avviene in tutto il mondo. Un altro aspetto molto critico è quello delle assicurazioni dei set e delle assicurazioni della produzione, no? Perché l'assicurazione copre qualunque tipo di incidente, ma finora non ha coperto il Covid. E quindi noi stiamo lavorando per questo costantemente col governo per trovare una soluzione di garanzia assicurativo che permetta di coprire anche questi rischi, per cui chiunque lavora, incluso lei, sia garantito. La ringraziamo, adesso abbiamo perso veramente la linea, ma Francesco Rutelli, grazie, è stato con noi, presidente di Anica, cioè GR24. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme, con un evento speciale, la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Ancora una buona giornata da Laura Bettini e da Carlo Gabardini, che è sempre in collegamento con noi, vero Carlo? Confortami. Ti conforto, sono qui. Ok, sei lì e vai in bici tu, ti piace? Sai andare, hai imparato da bambino? Mi piace molto. Ultimamente no, non vado in bici, non posseggo una bicicletta, quindi sono anche molto interessato alla questione del bonus, ma sono andato molto in bicicletta da giovane, andavo a scuola in bicicletta, ho avuto il motorino molto molto tardi, quindi diciamo che fino ai 24 anni sono sempre andato in bicicletta. Bene, allora quindi non hai bisogno di imparare ad andare in bicicletta, ma può capitare che ci siano persone invece in giro per l'Italia, per il mondo, che hanno bisogno di imparare ad andare in bicicletta. E allora qui arriva una grande attività di insegnamento che parte da Bologna ma che prossimamente potrebbe raggiungere anche molte altre città, un'attività che diciamo viene lanciata e qui ci viene raccontata perché comunque è già un po' di anni che la portano avanti da Sara Poluzzi, attivista di Salva Ciclisti, è in collegamento con noi da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Andrà tutto in bici, invece andrà tutto bene, ma andrà anche tutto in bici. Voi avevate già questo slogan prima del Covid, attualmente è ancora più, no, alla page, potremmo dire. Sì, diciamo che Andrà tutto in bici è nato in realtà da poco, sulla scia appunto di Andrà tutto bene, ed è stata una campagna alla quale la nostra associazione ha partecipato come associazione tra le tante che fanno riferimento alla consulta della bicicletta di Bologna. E è un progetto molto bello che sta riscuotendo molto successo in tutta Italia. Ci stanno chiedendo un po' di replicarlo, nel senso che si tratta di una campagna con una cartellonistica dalla grafica molto accattivante che appunto invita all'utilizzo della bici come migliore arma difensiva verso, non solo verso il virus, perché comunque si distanzia naturalmente e fa bene al sistema immunitario, fa bene a tutto il corpo e alla mente. Ma fa bene in generale anche all'ambiente, no? Perché comunque si va, certo. Esatto, non ci sono emissioni, non ci sono particolati e così via. Questa campagna a Bologna, in particolare sulle fiancate degli autobus, no? Poi ci sono i cartelloni stradali, manifestini, c'è cioè un po' di tutto, si affianca poi a un'azione anche di insegnamento, no? A chi non sa andare in bicicletta. Avete i vari fronti. Esatto, abbiamo vari fronti perché noi stiamo ogni settimana c'è una chiacchierata con gli esperti e stiamo mettendo in campo tutto quello che noi nella nostra associazione e insomma tra le varie associazioni della consulta sappiamo fare, quindi tra le varie cose in cui siamo esperti appunto c'è insegnare ad andare in bici. Abbiamo attivo questo progetto che si chiama Bici Libera Tutti dal 2018. È unico in Italia perché anche cercando in rete non ci sono corsi piuttosto che spiegazioni veramente utili per imparare ad andare in bici, e di persone che non sanno andare in bici o meglio vogliono imparare ce ne sono tante, è solo che non ce ne rendiamo conto perché si vergognano, fanno fatica a mettere questa difficoltà, perché poi ricevono dei commenti del tipo ma non sai andare in bici, ma io sì, è ancora più strano, esatto, che non sapere nuotare, no? Perché se insomma può capitare che ci siano persone che non sanno nuotare, magari hanno vissuto tutta la vita lontani dall'acqua, dalla piscina, quello che è, la bicicletta la si dà molto di più per scontata. Sicuramente. Vero. Voi avete però insomma insegnato a tanti, giovani e vecchi, anche anziani, no? Ho letto insomma sulla vostra scheda, manager e così via, che poi però dicevano fa un po' fatica magari ad ammettere che hanno imparato in tarda età. Sì, io da anni cerco qualche testimonial che venga a raccontare o ai tutor che via via noi formiamo oppure ad altre persone insomma che vogliono imparare, cerco qualcuno che abbia voglia di parlare della sua esperienza, ma nessuno si offre, anche se è una cosa che hanno acquisito e che sono riusciti a fare. Nessuno vuol parlarne, quindi è una situazione come potete ben comprendere molto delicata, e noi la trattiamo appunto insegnando non con delle lezioni di gruppo ma con una relazione uno a uno, quindi molto più delicata, molto più attenta alla persona e ai suoi bisogni specifici. E quindi da un lato abbiamo dei corsi per tutor, quindi dei corsi per insegnare ad andare in bici. E quindi diciamo sarebbe interessante anche diffonderli, se qualcuno che ci sta ascoltando ha un'associazione oppure in proprio vuole diciamo diventare tutor e avviare sul suo territorio una un'attività di questo genere, questa attività è veramente bellissima perché dà una grandissima soddisfazione sia a chi impara sia a chi insegna, perché aiutare una persona a superare un suo limite e consentire di fare cose che poi sono sempre abbastanza divertenti o liberatorie, no? Come andare in bici a lavorare piuttosto che farsi dei lunghi interminabili percorsi in autobus piuttosto che in coda in macchina. Abbiamo avuto una signora che gli dava fastidio farsi sempre accompagnare al mare e non essere autonoma. Adesso prende la bici e va al mare, me la immagino sempre con i capelli nel vento che va. Sono persone che soffrono di questo perché per non dire che non sanno andare in bici si danno malati quando ci sono delle escursioni, delle cose belle da fare. Ecco, questo, allora io trovo che sia veramente un'iniziativa lodevole, perché ci si dimentica spesso del fatto che ci sono persone che non sanno andare in bici, e trovo straordinario, vorrei anche che ci raccontassi, abbiamo tutti in mente quando da bimbi, da 3 anni a 5 anni, con le rotelle magari facciamo quel sorriso perché per la prima volta riusciamo a stare in equilibrio in bicicletta. Mi piacerebbe capire che faccia fa un 65 o una signora di 70 anni che improvvisamente acquista la propria libertà imparando ad andare in bici, perché la trovo una cosa stupenda alla quale non ci pensiamo mai, che tanta gente magari non sa andare in bici, e poi anche se vi sposterete online a fare lezioni online per imparare. Sì, allora queste persone arrivano da noi molto, molto insicure, molto dubbiose sul fatto di poter riuscire, e solo che noi le sorprendiamo perché il nostro metodo sì, c'è la tecnica, ma viene dopo tutta una serie di passi, nel senso che prima il tutor entra in contatto con la persona, si parla, si condividono le esperienze, poi insomma le abbiamo insegnato a dar per scontato che la persona imparerà, e alla fine la persona ci crede, si mette sulla bici con tanta pazienza e mette veramente a nudo una parte di sé molto delicata, no? Che è quella delle nostre paure, delle nostre speranze. E poi è una cosa bellissima vedere questa persona, il primo, diciamo, inizialmente non si pedala, si tiene la bici solo col manubrio e coi piedi per terra e si cammina in leggera discesa. Certo. Quindi si vede questa persona che inizialmente... Dobbiamo purtroppo salutarci, ma ci dobbiamo assolutamente risentire, anche perché come ben sappiamo imparare ad andare in bicicletta non è solamente imparare a pedalare, ma poi c'è anche la questione di magari imparare un po' di segnaletica, quindi ci risentiremo di sicuro per parlare di questi corsi di bicicletta che ci incuriosiscono però, un sacco. Però Carlo, prima di salutarci le chiedo, perché ci hanno scritto in merito, come si possono mettere in contatto con voi? Penso persone di Bologna a questo punto ce lo chiedono. Sì, noi diciamo ci possono contattare da tutta Italia perché abbiamo attivato da quest'anno, dopo la pandemia, un servizio di coaching anche a distanza, quindi ci sono degli studenti della scuola di coaching che si mettono a disposizione a distanza per chi vuole fare da sé, però infatti intanto affrontare il tema. In più, dove lo fanno questo di mettersi in contatto con voi? Come? Bici Libera Tutti. Sì, salvaiciclisti.bo.it. Okay. Comunque se si cerca Bici Libera Tutti si trova. Bici Libera Tutti. Sì, direi che fanno prima così. Grazie molte, davvero. Grazie Sara Poluzzi, attivista di Salva i Ciclisti, come abbiamo appena sentito anche nel suo indirizzo email. C'è la viabilità tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. 824 0024 è il numero verde per partecipare al quiz, ma oggi anche per dirci qualche destinazione un po' solitaria, insomma qualche gita fuori porta che potremo fare nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, durante l'estate, qualche luogo del vostro cuore, ma è anche il numero che magari potrete fare dopo aver sentito nella prossima intervista un po' quello che c'è da fare per cambiare il sistema alimentare, non solo nazionale ma sicuramente anche un po' quello, no, internazionale, perché siamo stati tutti ai fornelli, ci è sembrato di avere ormai grande dimestichezza, di sapere un po' tutto quello che c'è dietro, e invece non è così. Marta Antonelli, buongiorno. Buongiorno. Direttore di ricerca della Fondazione Barilla, economista per formazione, ricercatrice anche del CMCC, che è il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Voi avete parlato proprio di ripensare in chiave sostenibile i sistemi alimentari in questa fase post-Covid, in un incontro ovviamente rigorosamente online che si è svolto nel corso della settimana, organizzato dalla Fondazione Barilla. No? Ci sembra di sapere un po' tutto del cibo. Specialmente in questo periodo magari ci siamo messi tanto a fare in casa pensando di fare bene, ma non è proprio così, vero Marta? Allora, il sistema alimentare è un sistema molto complesso e credo che il Covid abbia evidenziato... Attenzione, se ha l'auricolare così, noi sentiamo un po' di rimbombo. Così mi sentite meglio? Non sono senza auricolare. O senza auricolare, così va bene, proviamo, dai, faccio del mio meglio. Allora, credo che appunto il sistema alimentare sia ormai da tempo fortemente in crisi, e che il Covid abbia evidenziato delle criticità, nel senso che c'è stato un peggioramento di condizioni e problemi preesistenti alla crisi e alla pandemia. E le problematiche che riguardano il sistema alimentare sono davvero multifaccettate, riguardano... Antonelli, mi scusi, ma noi sentiamo veramente, veramente troppo disturbato. Proviamo a richiamare per vedere se, se migliorano le cose. Tu Carlo ti sei messa a fornelli in questo periodo? Io poco, devo dire che a me il Covid mi ha fatto passare la voglia, altro che, temo di essere nella parte di quelli che si sono un po' più dedicati al confezionato che al fresco. Comunque no, non sono un grande cuoco, diciamo che sono campione milanese di uova sode, quindi non esattamente un esempio, un piatto tu difficile. Dici, non difficile, non un esempio. Esatto. Marta Antonelli, riproviamo a sentirla. Però sono molto, molto curioso di sentire da Marta Antonelli, soprattutto su una questione, sul fatto che ci siamo resi conto che le mense scolastiche sono in realtà anche un luogo di educazione alimentare, quindi nonostante spesso molti genitori si lamentino, però sono spesso cibi sani e di qualità, o perlomeno il tentativo di una dieta bilanciata. Invece si è scoperto che in questo periodo di lockdown molti bambini va a finire che mangiano molto male, perché in casa, fra problematiche, cibi già preparati e tante altre cose, in realtà ci siamo accorti che sono un presidio appunto dell'alimentazione fatta bene, e questo mi sembra un punto importante. È giusto, signor Antonelli? Sì, assolutamente. Io direi che appunto la chiusura di scuole, ma anche di mercati e di mense caritatevoli, ha aggravato davvero molto sui gruppi più vulnerabili della popolazione, a cui è stato precluso di fatto accesso a cibo sano e nutriente. Spesso per questi bambini appunto la mensa scolastica era un'occasione di consumo di cibo sano e nutriente, quindi assolutamente questo ha rappresentato una problematica importante. Quello che secondo me è da sottolineare è che ci sono stati esempi di città che hanno risposto alla crisi in maniera diciamo resiliente e adattandosi alle nuove condizioni, e in questo senso la preparazione ha premiato. Faccio riferimento ad esempio a città che si erano dotati di uffici di coordinamento delle politiche alimentari. In Italia c'è da citare certamente il caso di Milano, che da diversi anni ormai si è dotato di appunto la capacità di lavorare sul sistema alimentare urbano, mappando i bisogni della città, mappando le strutture all'interno della città, e questo ha consentito, attraverso anche un approccio multiattore che quindi ha coinvolto anche società civile, enti caritatevoli eccetera, di creare una serie di hub temporanei in cui il cibo veniva conservato, veniva distribuito e poi con una serie di minibus appunto portato ai più bisognosi, da anziani a indigenti, fino a raggiungere oltre 20.000 persone. E un esempio, secondo me, anche diciamo per andare fuori dall'Italia, da citare l'esempio della città di New York. New York ha stimato che l'insicurezza alimentare da marzo a maggio è passata da riguardare 1 milione di persone a 2 milioni di persone, quindi raddoppiando. Anche qui la risposta di una città che già lavorava in maniera molto importante, molto intensa sul suo sistema alimentare, sul renderlo più resiliente, più adattabile, più pronto di conseguenza a shock e crisi come la pandemia, ha consentito la rapida creazione di 400 food hubs, quindi di centri che appunto redistribuivano il cibo, ma anche di linee guida alimentari adattate ai quartieri della città di New York, o ad esempio il rafforzamento dei banchi alimentari per i diversi quartieri e per i diversi gruppi di cittadini con una domanda in evidente aumento, e anche la capacità di reindirizzare il settore dell'Horeca. Quindi del certo bar, ristoranti eccetera, alla distribuzione di pasti per le forze di soccorso, qualcosa che per esempio ha riguardato anche la città di Parma. Quindi in questo senso aver lavorato, aver costruito, aver seminato, investito in un sistema alimentare resiliente ha consentito di mitigare gli impatti di questa brutta crisi. Ma io avevo pensato come resilienza anche proprio una questione di che però più relativa alla produzione, non tanto a come ciascuno compone in casa. C'è anche un problema di quel tipo nelle catene alimentari, cioè la dipendenza dall'estero, per cui nel momento in cui il commercio si ferma io ho un problema di approvvigionamento, oppure quello tutto sommato è passato? Allora, il lockdown e restrizioni protezionistiche, interruzione dei trasporti sono fattori che hanno pesato moltissimo sulla filiera. Hanno bloccato l'export di alcuni prodotti, faccio l'esempio delle esportazioni di riso dall'India, per esempio, e hanno avuto anche un effetto su filiere e prodotti che necessitano di essere processati, pensiamo ad esempio al latte. Per cui si sono osservate queste interruzioni, queste disfunzioni create dalle misure di emergenza, hanno creato ad esempio ingenti sprechi, quindi proprio per l'impossibilità, a causa di questa interruzione, per esempio, di trasformare, di processare alcuni tipi di alimenti. Un'altra problematica importante, credo, è la questione della forza lavoro stagionale. Sappiamo che alcune filiere... E lo vediamo poi nel riflesso che ha sui prezzi questa situazione, esatto, di difficoltà. Esatto, effetto sui prezzi. Posso far l'esempio del 3% dell'aumento del prezzo per il comparto alimentare in Italia, circa 150 euro in più a famiglia, e se andiamo a guardare però dei prodotti in maniera diciamo più specifica, ci rendiamo conto insomma che in alcuni casi l'aumento dei prezzi è stato si è veramente impennato, e questo come sempre colpisce quelle persone più vulnerabili e che spendono la maggior parte del proprio reddito per l'approvvigionamento alimentare. Faccio un esempio di per quanto riguarda frutta e verdura, direi che l'aumento è ben oltre il 3%, nel senso che credo che chiunque si sia accorto di quanto in più costi frutta e verdura in questo periodo. Ci viene detto che è per il lockdown, speriamo che si torni indietro. Sì, assolutamente, e quindi di conseguenza appunto chiaramente anche dal punto di vista dell'offerta questa pandemia ha evidenziato e ha creato diverse criticità, e quello che è importante anche dire che tutto questo ha un effetto sul consumo, chiaramente sulla capacità delle persone di avere accesso a dei prodotti sani, di qualità. E di conseguenza uno delle problematiche che vorrei insomma evidenziare rispetto alla situazione attuale è il problema di accesso al cibo sano e di sicurezza alimentare. Cioè, a livello globale è stato stimato che entro la fine del 2020 35 paesi in più potrebbero entrare in una situazione di carestia, andando ad aumentare di oltre 130 milioni il numero di persone cronicamente insicure dal punto di vista alimentare. Insicure vuol dire che non hanno sufficiente cibo a disposizione? Insicure? Esatto, non hanno le condizioni che consentono accesso al cibo, è un problema legato fortemente alla povertà, a condizioni socio-economiche. Chiaramente la crisi innestata dal Covid-19 non ha fatto altro che peggiorare condizioni già di vulnerabilità preesistenti. Ma questo ci tengo a sottolineare. Mi scusi, per fare degli esempi pratici, nel senso che da un lato, per essere molto semplici, si parla di carestia e di persone che non riescono a mangiare sufficientemente, e dall'altro si parla di prodotti sani. Com'è che si può coniugare queste due esigenze, che spesso uno pensa che sia più importante intanto mangiare qualche cosa, invece mi sembra giusto sottolineare che è importante mangiare cose sane, perché se uno mangia malissimo non va bene per niente, insomma, da un certo punto di vista. Come si può coniugare queste due necessità, cioè di raggiungere del cibo, ma di raggiungere anche del cibo sano? Allora, questo tema è un tema a mio avviso davvero fondamentale. Si parla di trasformare il concetto di diritto al cibo a diritto al cibo sano, e quindi creare le condizioni innanzitutto politiche per far sì che le persone possano avere accesso non soltanto al cibo, ma al cibo sano. Per fare un esempio concreto, noi viviamo in condizioni che determinano le nostre scelte alimentari, i cosiddetti ambienti alimentari, quindi siamo influenzati per esempio dalla disponibilità di cibo sano, quindi dalla presenza nell'ambiente esterno di condizioni che ci consentono di avere accesso. Siamo condizionati dall'accessibilità a questo cibo, quindi in termini per esempio di distanza per raggiungere un mercato contadino, un negozio, dal tempo a disposizione, dei mezzi di trasporto. Siamo influenzati inoltre dal prezzo, dal marketing e da tutte quelle condizioni che determinano la desiderabilità del cibo sano da parte dei cittadini. Allora, qui c'è veramente un complesso sistema di azioni da mettere in campo per dare priorità al diritto al cibo sano per tutti. Questo significa, da una parte, far comprendere ai cittadini quanto possono fare attraverso scelte quotidiane, quindi il famoso votare con la forchetta, e questo lo facciamo 3 volte al giorno, molto importante, e quindi chiaramente hanno un ruolo fondamentale le scuole, la formazione dei docenti, ma anche i media, i sistemi di comunicazione. Dall'altra parte è fondamentale creare delle condizioni, degli ambienti alimentari, così come ho cercato di descriverli, che rendano le scelte alimentari sane e sostenibili le più facili le preferite dalle persone, che sia in qualche modo rendere mainstream quello che ad oggi è una condizione ancora per pochi. Esatto, un po' per pochi, un po' di nicchia. Marta Antonelli, la ringraziamo molto, ricordo direttore di ricerca Fondazione Barilla, buon lavoro, buon proseguimento, noi adesso abbiamo una piccola pausa e poi torniamo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is right. Abbiamo parlato di cibo e quale cibo è più vicino a tutti noi italiani della pizza? Non so, Carlo, come la pensi tu, ma insomma la pizza è sempre casa per noi, un po' come la pasta, la, certo. Alla follia, in tutte le sue declinazioni. Ebbene, Franco Pepe, pizzaiolo di Pepe in Grani, è in collegamento con noi ed è un neo cavaliere al merito. Buongiorno intanto, complimenti, congratulazioni. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Tra l'altro Radio 24 le ha un po' portato fortuna, è stato recentemente ospite anche di Nicoletta Carbone, sì. Insomma tante volte a Radio 24 e noi siamo felici insomma di festeggiare insieme a lei. Io vi ringrazio, venite a festeggiare qua, dai, Caiazzo. Se ci volete, non lo so, noi veniamo dalla Lombardia, non so adesso come siamo messi. Dai. io salirò da breve a fare degli eventi a Milano, quindi voglio dire, Milano per me è una città importantissima. Pure per quello che faccio. Bene, allora noi verremo volentieri, lasciamo passare ancora un pochino di tempo così tutti gli animi si calmano e lei anche potrà insomma ritornare alle sue consuetudini, perché insomma anche per chi ha i locali in questo momento non è tanto facile insomma ripartire come prima. Guardi, allora io questa era la paura, e l'incertezza che c'era fino a un mese fa. Anche io che avendo 43 ragazzi in cassa integrazione in una piccola pizzeria, in un piccolo borgo del centro storico di un paesino di 5.000 abitanti, avevo cercato di portare il mondo qui a Caiazzo, cioè portando 400-500 persone al giorno, parliamo di 13.000-14.000 persone al mese in un centro che si ci viene per la pizza, e allora io avevo questa paura. Però devo dire che sono ottimista, sono fiducioso, perché all'area di riapertura, che era stato il 2 proprio, tra l'altro io non ho voluto aprire il 18, ho detto aspetto un'altra settimana, voglio aprire il 2 perché mi volevo ricollegare al 2 giugno del 2019 che il Presidente già mi aveva dato questo riconoscimento di Cavaliere della Repubblica, quindi infatti la mattina del 3, quando sono arrivate le prime telefonate dei giornalisti, ho detto ma forse vi sbagliate, io l'ho ricevuto l'anno scorso questo riconoscimento. E invece, ma è pensare che il 2 giugno, quando io ho aperto le porte al pubblico, insomma, io ero nell'agenda del Presidente, però non senza saperlo. E questa è una cosa importante. E che, al tuo nuovo cavalierato, ma prima raccontiamo la storia però, perché tu quando hai dovuto chiudere il tuo ristorante a Caiazzo di Caserta, in realtà ti sei messo a preparare pizze e biscotti per i poveri e per gli anziani in difficoltà, e hai anche organizzato una raccolta fondi per l'ospedale di Caserta. Com'è andata? Come hai preso la decisione? Quando è accaduto tutto questo? Allora, nel momento, poiché noi abbiamo chiuso all'improvviso, io mi sono trovato con tanta materia prima che era reperibile, quindi voglio dire, dovevo comunque donare della materia prima, avevamo tanto in pasta, avevamo pomodoro, mozzarella, ci sono materie prime che tu non puoi conservare. E quindi pochi, 43 ragazzi tutti quanti. Beh, intanto è molto famiglia. Bello perché tu dici dovevo donare, in realtà c'è tanta gente che probabilmente ha buttato via, invece giustamente il tuo senso civico è, siccome comunque ce l'ho, la regalo. Ma guarda, io nel mio DNA, la mia famiglia, io rappresento la terza generazione, mio nonno negli anni 40, durante gli anni della guerra, la seconda guerra mondiale, lui ha tenuto un forno acceso, sempre aperto, perché lui panificava e dava quel pezzetto di pane pro capite a persone, 150 grammi con l'esibizione della testa, e molti lo raccontano a Caiazzo. Quindi voglio dire, un po' mi sono ritrovato in quello che ha fatto nonno durante gli anni della guerra, ma un po' questo era pure un'emergenza. E poi io vivo proprio in pizzeria, tre dei ragazzi mi hanno seguito, che erano tra l'altro ragazzi di origine non italiana, che loro abbiamo condiviso, è bellissimo, sono due egiziani, uno di origine ucraina, che dei 43 che abbiamo condiviso pranzo e cena, e abbiamo pensato, dopo aver donato le materie prime, di utilizzare questo tempo, per esorcizzare questo tempo, a sperimentare e poi a donare. Ho detto ragazzi, ci troviamo in pizzeria, viviamo in pizzeria, continuiamo a lavorare e se torniamo, poi tra l'altro avendo già avuto contatti, perché diciamo del volontariato l'ho fatto già prima con gli ambasciatori, cioè come ambasciatore sia con l'associazione l'Angelo degli Ultimi di Casette, sia quello di Clochard, e quindi ho riempito questo tempo con i ragazzi in modo veramente dal singolo caso nel centro storico del disabile che non può muoversi, o dall'anziano alle associazioni che curavano i Clochard, oppure l'associazione di Suor, oppure case per anziani. E poi per esempio la cosa bella è che ho riunito un po' tutti i miei piccoli produttori, abbiamo fatto una piattaforma dove abbiamo raccolto fondi, abbiamo donato all'ospedale Civica 7 che era in difficoltà, abbiamo donato un ventilatore polmonare, delle mascherine, ma l'ultima donazione la devo fare la settimana prossima perché mi rimangono ancora 4.500 euro, per dire che l'ultima coda è li vado a donare a loro la settimana prossima. Poi la cosa più bella, mentre tutti quanti i miei colleghi facevano pure, come l'ho fatto pure io, bellissimo con Massimo Bottura, per dire, facevano stress social dei laboratori, cercavano di far capire come intrattenere le persone a casa. Io che cosa ho fatto? Ho fatto dei laboratori bellissimi, hanno riempito l'anima, perché io ho adottato da anni, e quindi sto qui lì vicino a Milano, un centro disabile di Cologno Monzese, dove lì fanno un corso di cucina, dove ho tornato con un forno. Ogni tanto quando salgo su a Milano vado a trovare questi ragazzi fantastici, e pochi erano, i ragazzi erano presso le proprie famiglie, abbiamo fatto dei laboratori bellissimi, mani in pasta con quei ragazzi. Ma quindi lei ha lavorato di più di prima alla fine, in questo periodo? Era difficile far trascorrere quel tempo, è l'unico modo per poterlo fare e rendersi utile. Io ho ascoltato uno dei primi incontri con la protezione civile per TV, che con il professor Brusaferro disse: attenzione, facciamo rete sociale, occupiamoci delle fasce più deboli. Io l'ho messo in pratica perché lo sento di fare, non cercavo nessuna popolarità, avevamo tanta paura. Io con i tre ragazzi a volte ci sedevamo, pranzo e cena, segno della croce, pregavamo perché avevamo veramente paura. E poi io veramente in un paesino di 5.000 anime, io ho portato un progetto nato per fare poco e invece è cresciuto tantissimo, e mi sono visto cadere un po' il buio davanti. E invece certo. Il 2 giugno abbiamo dovuto dire di no alle persone, e una cosa importante, ho staccato già dalla cassa integrazione il 90% dei ragazzi. Oggi è lì in segreteria da me, qua dove sto in pizzeria oggi, i miei ragazzi in segreteria stanno cercando di dire nel modo giusto no a tante persone per stasera. Questa è una cosa bellissima, quindi voglio dire, c'è tanta fiducia, c'è una ripresa, abbiamo lavorato tanto sulle criticità di come impostare il progetto in modo diverso, far sentire il cliente in un posto accogliente e sicuro. Quindi abbiamo lavorato tantissimo. Questo fatto di lavorare per gli altri, per se stesso, mi ha dato la possibilità di trascorrere questi mesi in modo diverso. Ma cioè, non mi aspettavo tutto questo. Io veramente, più di me, diciamo che questa onorificenza sarebbe. La potevano avere persone che sono state in prima linea in stadio. Io per esempio quando interagivo con l'ospedale Civico di Caserta, la sala di animazione, c'è una dottoressa che ancora oggi non ci siamo incontrati fisicamente per conoscerci, e lei ci confrontavamo con le nostre paure, le nostre incertezze, perché a volte non c'erano nemmeno le mascherine per entrare in sala di animazione, in camera intensiva. Abbiamo condiviso delle paure, delle incertezze, e io spero di incontrarla quanto prima. Ma sicuramente, allora una persona come quella è veramente una persona che è stata in prima linea. Lei diceva: io ho paura di tornare a casa, ho i figli. Presidente mi ha considerato, io lo ringrazio, ma lo condivido con tutti i territori, tutte le persone che mi sono state vicine, soprattutto quei ragazzi che non mi hanno mai abbandonati in 3 mesi. Grazie allora, grazie davvero Cavalier Pepe, a questo punto la dovremmo chiamare così, e attraverso Radio 24 arrivi il suo saluto anche a tutti coloro che appunto le hanno consentito di raggiungere questi obiettivi, di aiutare così tante persone, di essere loro vicine. Noi abbiamo in collegamento un'ascoltatrice adesso che non da Caiazzo, dove si trova la pizzeria Pepe Ingrani, bensì dalla provincia di Monza, ci chiama. Franca Carla, buongiorno. Oh, buongiorno. Ascolto sempre la vostra trasmissione, interessantissima e utile. Ma grazie. Ma lei non ha l'accento dalla provincia di Monza, però lei mi giunge dal Piemonte. Sono una valfusina. Mi sembra piemontese. Proprio di origine, di cuore, anche se qua è bellissima, la Lombardia è bellissima, diciamolo. Quindi lei ci vuole dare un consiglio, un consiglio di gita? È così, Lei ci vuole dare un consiglio per una gita, quindi? Ma per una gita, anche per una gita, dire il vero, volevo parlare di una ricetta per mangiare sano, non spendere tanto. Ah, sentiamo allora, va benissimo. Come volete. Ci dica la ricetta. La ricetta, allora, siccome si spende tantissimo per tutto, no? Io a volte, almeno una volta a settimana, faccio un piatto unico, no? A mezzogiorno. Per esempio, il risotto con gli asparagi, no? A modo mio, io non voglio consumare tanti grassi, allora metto un po' d'olio in una pentola, uno spicchio d'aglio. Ma senta, ma gli asparagi quanto costano? Poco, li ho comprati ieri, ho controllato, non io, ho comprati mio figlio, io non esco ancora, non voglio uscire. Allora, 2,49 mezzo chilo, asparagi bellissimi, belli, 2,49 mezzo chilo. Con mezzo chilo di asparagi belli si fa un bel risotto per 4 persone. Allora, un po' d'olio. Ma no, non ce la può raccontare tutta, però è un'idea. Ma faccio veloce. Dai, un po' d'olio, veloce. Allora, vai. Trito una bella cipolla bionda e la lascio appassire bene, bisogna controllare. Dopodiché, allora, prima però ho fatto bollire gli asparagi in acqua un po' salata. L'acqua non la butto via, tiro su gli asparagi con un ramaiolo, li metto in un piatto. Tolgo le punte, trito tutti gli asparagi, tutta la parte verde, no? Dopo che la cipolla è appassita, con l'acqua degli asparagi. Come? Giustamente. Allora, trito gli asparagi già cotti, no? Sì. Tutti lo butto dentro, sì, la pentola, ma abbiamo capito, signora, basta sulla ricetta, no? Va bene, non riesco a capire. Niente, va bene, allora noi dobbiamo salutarla. Niente, perché signora, abbiamo la viabilità che come sa su Radio 24 passa a quest'ora. Comunque abbiamo colto il suggerimento del risotto con gli asparagi di Franca Carla, viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco, come sempre il sabato, una selezione delle più belle notizie che abbiamo trovato, buone notizie per Si può fare della settimana. Al quinto posto parliamo di alberi tra Milano e Firenze. A Milano infatti sono stati piantati 150 alberi per compensare le emissioni di una convention che ha effettuato l'Ireco Italia. L'Ireco Italia è un'azienda che si occupa di forniture per uffici ufficio e prodotti per il posti di lavoro, insomma. Ebbene, per compensare appunto le emissioni che avevano fatto con una loro convention, hanno piantato 150 alberi nella area del Parco Nord Milano. L'iniziativa contribuisce così ad ampliare il polmone verde di Milano, sposando l'obiettivo del progetto Foresta Me, promosso dal Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia, con una serie di altri attori che sono stati coinvolti. E poi, contemporaneamente in settimana, a Firenze sono stati piantati i primi 36 alberi dei cittadini. È una cosa di cui avevamo parlato anche noi a Si può fare. Sono stati piantati leci, platani, ciliegi e tigli donati dai cittadini in ricordo dei loro cari a cui sono stati dedicati. Si tratta della tranche iniziale del progetto Dona un albero, lanciato lo scorso 26 novembre dall'assessorato e che a causa della pandemia è partito poi in pratica soltanto oggi. In totale sono 584 gli alberi donati e entro novembre saranno tutti messi a terra, diciamo così. Al quarto posto riapre a Tor Bella Monaca l'ambulatorio di medicina solidale. Come sappiamo, non occorre spostarsi di chilometri, la necessità di avere cure di qualità, solidali, gratuite e vicine è anche nelle nostre città. Infatti da 16 anni Medicina Solidale opera nelle periferie di Roma e dovunque ci siano sacche di difficoltà per donare assistenza sanitaria gratuita e di qualità a tutte e tutti. Ma cos'è successo? Medicina Solidale spesso si è scontrata con la cecità e il cinismo delle istituzioni, il municipio e comune di Roma su tutti. Infatti a ottobre 2018 una mail aveva chiuso l'esperienza dell'ambulatorio di strada di Tor Bella Monaca. In essa il municipio di riferimento chiedeva la restituzione dei locali nonostante i numeri importanti di persone che aiutassero anche dal punto di vista sociale e alimentare. Beh, ecco. La buona notizia è che l'emergenza Covid-19 ha permesso che venisse riaperto l'ambulatorio di Tor Bella Monaca che, ricordiamo, ogni anno cura 13.000 pazienti. Al terzo posto negli Stati Uniti, più rinnovabili che carbone per la prima volta dopo 130 anni. Il consumo energetico complessivo delle fonti rinnovabili ha superato il consumo di carbone. Ne dà notizia la US Energy Information Administration in una nota che presenta le sue ultime statistiche sulla energia. Nelle categorie delle rinnovabili sono comprese le biomasse e i biocombustibili. Le rinnovabili nel 2019 sono arrivate al massimo di sempre grazie soprattutto alla continua crescita della generazione da eolico e fotovoltaico. In totale hanno rappresentato circa l'11% dei consumi energetici totali nel paese, mentre il carbone è sceso a livello più basso dal 1964, con consumi in declino per il sesto anno consecutivo, nonostante noti a tutti ormai tentativi dell'amministrazione Trump di sostenere questa industria del carbone e proteggerla dall'avanzata delle rinnovabili. Al secondo posto Venezia e Chioggia anche, il Mose alza le due barriere, gente assiste dalla spiaggia, ovvero è avvenuta la doppia prova di sollevamento delle schiere di paratoie del Mose e quindi un test che è stato positivo ed è stato portato a termine con successo, l'ultimo prima della prova generale che sarà il 30 giugno, quindi fra 24 giorni. Un collaudo che fa ben sperare, diciamo che questo più che un si può fare è speriamo che finalmente si sia fatto, visto che è da tanto che parliamo del Mose. La data di consegna della grande opera idraulica progettata per proteggere Venezia dalle acque alte eccezionali è confermata per il 31 dicembre 2021. E al primo posto una buona notizia soprattutto per il simbolo che è, dopo 80 giorni di chiusura, riapre il Colosseo, un segno di rinascita e di speranza per l'Italia. È il monumento, come si dice, più iconico della capitale, ma non solamente della capitale. Il Colosseo, rimasto chiuso per oltre 80 giorni a causa del lockdown, riapre, un nuovo inizio che vede delle importanti novità per quanto riguarda l'organizzazione delle visite, i biglietti, gli orari di accesso, ma insomma il significato è chiaro, il luogo, che è un luogo del cuore, dell'anima, un simbolo della cultura per l'Italia e per il mondo, ritorna fruibile. Sarà possibile accedere al Colosseo dalle 10.30 alle 19.15 con prenotazione obbligatoria acquistando biglietti online per gruppi fino a 14 persone che entreranno ogni 15 minuti e saranno sempre accompagnati. Queste le regole, ma la riapertura è certa. Give me five. All right. Give me five. All right. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. E in conclusione, come spesso facciamo in questo periodo, aggiungiamo una buona notizia extra budget, diciamo così. Parliamo con la maestra Francesca, che non è più sola ormai a leggere nel parco, nei parchi di Prato, leggere per i bambini che così tornano ad avere una piccola vita sociale, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Francesca Sivieri è in collegamento con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Prati nelle storie, così è stata, no, chiamata questa iniziativa, è partita da sola e adesso siete molte di più, c'è stata qualche polemica ma di quelle non vogliamo parlare adesso perché noi vogliamo dare la buona notizia che il si può fare, no? Si può tornare nei parchi con i bambini e stare insieme. Esatto, sì, parliamo solo del lato positivo di questa cosa che è nata come un gesto spontaneo e volontario e piano piano sono stata inondata di tanto affetto e di tanta stima e anche tante colleghe hanno preso il coraggio di andare nei parchi a leggere e quindi sono molto contenta. Senta, lei si rivolge ma a bambini. Ma come funziona questa cosa? Io do un appuntamento e ci troviamo in dei giardini della mia città e leggiamo, e i bambini che hanno piacere di ascoltare una storia si possono semplicemente avvicinare. E quindi stanno lì, sono accompagnati, no, di solito questi bambini? Sì, sì, sì, sì, perché io sono insegnante di scuola dell'infanzia, quindi la fascia, diciamo, dei bambini che piccoli si avvicina sono. È prevalentemente quella, sì, dai 3 ai 6, 7 anni, quindi vengono accompagnati con i genitori che stanno lì con loro. E in questo tempo ci dedichiamo ad ascoltare delle belle storie. È un modo per, diciamo, questa idea è nata perché sentivo la necessità di dover far qualcosa per questi bambini che erano stati un po' dimenticati, anche per queste famiglie che si sono sentite un po' lasciate sole. E quindi ho deciso di dedicare del mio tempo portando una mia passione, che è quella appunto di leggere libri ai bambini, e devo dire, visto l'onda che ne è scaturita, che ha avuto successo. Sì, anche perché insomma la stagione è favorevole, le distanze sono rispettate, i bambini si possono rivedere, ci sono tanti motivi per i quali è bello farlo, si raccontano delle storie, lì si riabitua un pochino a stare insieme, sia pure appunto con, no, i nuovi criteri. C'è veramente molto di buono in questa iniziativa, direi. Noi le vogliamo fare tutti i nostri complimenti. E c'è addirittura una petizione in giro per farla Cavaliere della Repubblica. Al merito vedremo come andrà. Intanto Francesca Sivieri, grazie. Voi, grazie. Carlo, ci dobbiamo salutare perché il tempo è scaduto. Ci ritroviamo domani alle 8.30. Sì signori, ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo domani e lascio a te la parola per tutti i saluti e ringraziamenti. Grazie a Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, in regia c'è Peter Bescapè, da Laura Bettini, buon proseguimento, c'è GR24.